Tuo parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Agli ascoltatori, alle 18.30, a voi che siete nei campi rom, che state bruciando il rame, a te che c'è il semaforo, che sei lì a lavare il vetro, o a te muratore, ma alle 18.30, ma che cazzo di stazione stai a cercare? È qui dove puoi intervenire e battagliare, però non ti devi incazzare, perché questa è la zanzara di Cucciano e Parente, e tu nulla, nulla ci puoi fare. Allora iniziamo subito dal primo imbecille di giornata, caro David. Il primo imbecille di giornata. No, zitto, mercoledì non bisogna mai nominare né il giorno né buonasera né buongiorno. Zitto, muto, silenzio. Muto, silenzio. Né i giorni né buongiorno né buonasera. Stai zitto. Buonasera e buon mercoledì. Dai, su, non mi fare innervosire subito, però, dai, su. Allora, il primo imbecille di giornata, è un tizio che non mi va nemmeno di nominare per nome e cognome. No, nominiamolo. No. Nominatelo voi se volete. Un tizio che viene ospitato dal portale gay.it. Sapete quanto sono vicino a tutte le battaglie omosessuali? Vicino, cioè non me ne frega nulla delle battaglie. Odio fare le battaglie, certe battaglie. Ho le mie idee, punto, e le dico, per fortuna le posso dire. Sul matrimonio, sull'adozione addirittura, molto più avanti di tanti omosessuali che conosco. Ma il punto non è questo. Si parla della morte di Buonanno. C'è un signore che su gay.it, sapete le posizioni di Buonanno, anche forti sugli omosessuali, le battute che ha fatto su Vendola, sugli omosessuali stessi, Finocchi. Battute molto sconvenienti anche oggi, ma che sì, non c'è più, lo possiamo carità. Dire, no? No, ma delle battute, no, appunto, delle battute, no. Diciamo anche pesanti. Bravo, battute meno male, pesanti. Meno male. Non meno si male. Ricorda un'azione di qualcuno ispirata da Buonanno per questo picchiare gli omosessuali. Ma no, questo non si può dire, non esiste questa cosa. Non tra l'altro dirlo. Ultimamente Buonanno aveva istituito una specie di registro, no? Voleva addirittura anche lui sposare, tra virgolette, gli omosessuali. Ma lasciamo perdere. Questo signore sul portale gay.it scrive: in questa storia di morte, scrive un articolo lunghissimo che non vi sto a citare, in questa storia di morte e di sollievo vedo dei partigiani che passando per caso vedono un'auto delle SS ribaltata su un ufficiale morto. Che schifo. Questo vedo. Cioè, questo signore, questo coglione, vede dei partigiani che passano, forse lui, ma che si autoproclama partigiano, questo imbecille, che, ripeto, dei partigiani che passando per caso vedono un'auto dell'SS ribaltata su un ufficiale morto. Questo vedo. Forse faceva riferimento alla marca della macchina. Della macchina. Non lo so, del non credo. No, troppo sofisticato questo, sì, che sì, troppo detto. Sofisticato per è questo imbecille. È troppo intelligente questo che hai detto. A questo siamo, capito? Un'auto dell'SS ribaltata su un ufficiale morto. Vabbè. Allora, i funerali di Buonanno si svolgeranno molto probabilmente martedì, purtroppo nel pomeriggio, non so se potrò essere presente. Faranno l'autopsia, credo, domani, anzi venerdì, e basta. Caspita, però da quando è mancato è passato tanto tempo, è incredibile. L'autopsia, ragazzi, devono capire tanto se aveva o no la, non dall'autopsia, naturalmente la cintura, perché pare non l'avesse. La cosa non cambia nulla. Qualcuno ha detto non aveva la cintura, molto probabilmente. Ma saranno cazzi suoi, no? Infatti è morto. Cosa c'entra? Cioè che non aveva la cintura. Ci sono molte persone che non mettono la cintura, purtroppo sbagliano. Cioè non è un aggravante quando uno muore, che sia perché non ha messo la cintura o perché l'ha messa e muore lo stesso, perché succede pure che uno la mette e muore uguale. Cioè, cosa cambia? Nulla. Niente. Volete fargli la multa post mortem? Non lo so. Togliergli i punti della patente? Succede alla Camera dei Deputati. Richetti, deputato del PD, chiama così Capezzone. Alla puntuale e condivisibile riflessione dell'onorevole Cazzone, de Capezzone. Capezzone. E colleghi, è su, forza. Allora. Cioè, la cosa più curiosa non è Richetti che sbaglia e dice Cazzone invece di Capezzone. Vabbè, può succedere, eccetera. Sì, magari l'ha fatto pure apposta, non lo so. No, oppure gli è scappato. No. Ma è la Boldrini. Ma fatela una risata una volta. Cioè, fatela una risata. Colleghi, colleghi, fatti una risata. No, è successo in Parlamento la parola cazzo. Colleghi, subito con la cosa. Tu. Con sto cazzo di. Con sta minchia di cosa. Di campanella. E basta con sta campanella. Ma colleghi, colleghi, e fai colleghi. Una risata e basta. Va bene, dai, però. Sì, vabbè, sono senza prego. Carica dello Stato. Non so. Vabbè, chi se ne frega. Però. Vabbè, ho capito, ma non è che gli ho detto che è una criminale. Ho detto però. Fatti una risata. Ho detto fatti una risata ogni tanto. No, è su. Allora, la questione di Roma e dei grillini sì, a Roma. Interessante, questo è interessante. Ma interessante cosa? Non sai nemmeno di che sto no, parlando. Però, tu, volevo cioè. Dare, però volevo dare carica al titolo che tu hai dato. Va bene, è una cagata, stiamo per parlare. No. Non so di cosa tu vuoi parlare, Olimpiadi, però volevo caricarti. Le Olimpiadi. Una cazzata, non mi interessa niente a nessuno. Allora, no, interessa. Andiamo un altro tema. Le Olimpiadi interessano. Non si capisce qual è la posizione dei 5 Stelle. Lo possiamo dire. Persona che è qua. Ma solo ciao dopo. No, sì, ma lo possiamo dire senza essere accusati di essere anti-grillini, la capite voi? Almeno gli altri dicono: noi le Olimpiadi le vogliamo. Per me è una follia, ripeto. Io sono dalla parte della Raggi quando no, diceva tutt'altro. Che è una cosa criminale. Beh, tu sbagli. La pensi diversamente, d'accordo. Io voglio le Olimpiadi. E va bene, d'accordo. Voglio le però Olimpiadi. Però si può capire qual è la posizione del probabilmente del prossimo primo cittadino di Roma, se vincerà, come è probabile, come dicono tutti i sondaggi. Magari poi Giachetti fa il miracolo, non lo sappiamo, signora Raggi. Perché prima dice che è criminale, bisogna pensare ad altre cose. Tutta una confusione. Vi voglio ricordare quello che diceva a dicembre il signor Di Maio. Signor sì, Di Maio. Vabbè, Di Maio. 14 dicembre 2015. Di Maio. Di Maio è uno dei dirigenti più importanti del Movimento 5 Stelle in Italia. Insomma, è uno che, no, quello che dice conterà un po' all'interno del Movimento 5 Stelle, o no? Direi. Appunto. Il direttorio. Sostiene la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024? La sosterremo se vinceremo a Roma. Se invece dobbiamo affidare la gestione delle Olimpiadi a chi, solo gestendo i campi Rom, ha creato mafia capitale, allora no, preferiamo restituire prima i servizi essenziali alla città. Speriamo di vincere e di essere i migliori alleati delle Olimpiadi per fare un ottimo lavoro. Ho capito. Allora ragazzi, c'è una divergenza di opinioni in questo caso o no? Sicuro. Mi sembra evidente, no? Allora, senti che dice Sallusti su Totti, eh? Totti si è allineato ai poteri forti di Roma. Ma adesso, evidente, sì. Amico mio Sallusti, bello, io credo che la parola poteri forti per Totti, credo che sia greco, cioè sia sanscrito, cioè non sa di che si. Ma Totti, giustamente. Ma è evidente, Totti è un comunista di merda. Cioè, ma è no, ma scusi, Sallusti, ma solo perché ha detto che forse vota Giachetti. Che guardi, vuole... domani noi sul giornale apriamo, ma senza livori nei confronti di questo signorotto che guadagna miliardi senza fare un cazzo, milioni, lanciando sì, una sì. palla. Miliardi, guadagni, sì. Noi abbiamo queste cifre, lei le ha diverse. Miliardi di euro. Domani faremo un'inchiesta in cui dimostreremo come Totti, che peraltro ha la testa del Partito Comunista Cinese. Combattente vero, e ha combattuto silenzio per il direttore vero. Del giornale e pubblicheremo una grande inchiesta di 24 pagine, il giornale ne ha soltanto 18, sì certo, in cui racconteremo una grande biografia su questo signor Totti, Totti che è stato complice del massacro dell'Ungheria. No, ma che c'entra l'Ungheria con Totti? Nell'Ungheria, cioè, nell'Ungheria è stato 56, un massacro non è nato bravo, vedo che allora qualcosa di comunismo lei conosce. In più, se lei compra il libro nero del comunismo, risulterà che questo signor Totti, che fa tanto la starletta del calcio, sì. Pagata miliardi di euro con i soldi per altro dei contribuenti, che c'è scritto su sto libro. Risulta perfettamente che diceva all'epoca della guerra del Vietnam Totti stava con i Viet Cong contro, è normale, ma no, una non era nato. E voi vi scandalizzate che ora sostiene quel comunista, già che è una cosa schifosa, è evidente. Vabbè, solo noi del giornale raccontiamo queste cose di Totti. La vera biografia di Totti domani sul giornale, un criminale comunista assassino, questo signor comandante, lo chiamano perché lo chiamano secondo lei il comandante a Roma? Ma non lo chiamano il comandante, il pupone lo chiamano. Il comandante, no, il pupone, Toti, no, a Roma. Lo chiamano il comandante perché è comandante di una brigata partigiana. Ma che non ha è massacrato, vero. Massacrato 50.000 italiani che combattevano la Repubblica Sociale Italiana. E voi questo lo grazie chiamate Sallusti. Eroe? Grazie Sallusti. Ma veramente una cosa incredibile sto Sallusti. Allora, crozza su Adinolfi. Si è molto incazzato Adinolfi. Adinolfi ha preso lo 0,6 chi come è previsto. Adinolfi? Non mi ricordo. L'ho sentito sto nome, ma chi è Adinolfi? Adinolfi ha preso lo 0,6. È partito dalla famiglia. Il popolo della famiglia. Là, il popolo chi della... chiama da fuori Roma? Partito dalla famiglia. Sai che ho conosciuto un candidato a Bologna del partito della famiglia? Del popolo della famiglia? Chi? Cioè, sono stato a cena sabato sera e c'era un rappresentante candidato del popolo della famiglia di Adinolfi. Ti giuro, del sì, ti giuro. Gli hai fatto una foto per. No, per... ma grande ascoltatore della Zanzara, eh? Cioè, certo. Ovviamente ci disprezza profondamente, soprattutto. No, mi disprezza, no, però pensa che siamo dei criminali, sì. Sì, però ascolta ogni sera la Zanzara. Candidato, non so quanti voti ha preso, adesso devo andare a controllare. Nessuno, perché tu contribuisci alla scristianizzazione della società. A me l'hanno detto in tanti. Infatti, tu sei uno scristianizzatore. Può darsi, può darsi. Sì, sì, sì. Crozza Adinolfi, me ne vanterei comunque. No, lo so, lo so. Un altro che da Roma esce a pezzettini è Mario Adinolfi, poverino. Lui ha preso lo 0,6% col partito della famiglia. Praticamente con lo 0,6% non l'ha votato nemmeno la sua di famiglia. Lo 0,6 è poco, eh. Poverino Marione, ha preso 7.000 voti a Roma, dai ragazzi, 7.000 voti. Sai che questa vicenda di Adinolfi mi ha fatto capire che in realtà mai presentarsi alle elezioni, Parenzo, io ho avuto questa idea incredibile di presentare sì. No. Le liste Zanzara, mai farlo. Mai, perché una mai. Cosa è la, come dire, la, no, la notorietà la mediatica, certo, una cosa sono le urne. Cioè, meno male che ci ho ripensato alla fine, perché Sgarbone ha scelto di non candidarsi a Milano, altrimenti avremmo fatto la lista Zanzara. Avremmo perché, fatto un bagno. Sai un che bagno. Sputtanamento? No, magari poi, non lo so, però comunque... No, avremmo disperso un grande patrimonio culturale. Ma qual è il patrimonio questo... culturale, scusa? Qual è il patrimonio culturale questa trasmissione? Ah, sì, certo. Avremmo disperso così nelle urne. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La Zanzara. Comunque ragazzi, oggi la numero uno è Alessandra Mussolini, chapeau alla sincerità. In un'intervista al Messaggero, la Duciona cosa dice? Cosa dice? Dice: la mia missione era solo fermare Meloni. La mia missione per volere di Berlusconi era un'altra. Impedire, ha preso 300 e passa voti, cioè rispetto ai voti che prende di solito, la Mussolini è un disastro. Era un'altra, impedire l'accesso della Meloni al ballottaggio. Il kamikaze, praticamente. E siccome siamo riusciti a tenerla fuori, altro che depressa, sono contenta. No, barracuda, kamikaze. Kamikaze. Io so soltanto che quando ci sono le imprese scomode e difficili, Berlusconi chiama sempre me. E io che gli sono affezionata e fedele, non mi tiro indietro. Sono stata una samurai contro la Meloni. Ho fatto una kamikazzata e l'obiettivo è stato colpito. Meloni e Salvini a Roma volevano fare la pelle a Berlusconi e diventare padroni di tutto il centrodestra italiano, ma non hanno fatto i conti con la kamikaze che li ha abbattuti. Poi fa pure un paragone, eh? Cioè, se tu fai qualcosa contro la mamma, così ha detto Bergoglio, una volta io ti tiro un cazzotto. Noi dovevamo prendere a pugni politicamente Meloni e Salvini e lo abbiamo fatto, strike. Ragazzi, la Duciona è sempre la Duciona, c'è cazzo da fare. Ti porto non qui, c'è un cazzo da fare. Devi sapere, fermo lì, fermo lì un attimo. Una voce che sono voglio che trans, tu saluti. Sono in trance. Ma che trans, saluta questa voce, perché qui sta facendo un digiuno, una. Peraltro. Chi se ne frega di digiuno? Ma perché uno fa il digiuno? Perché uno perché fa mettiti le cuffie. Ma è inutile fare il digiuno, inutile, fa digiuno, inutile. Fai il Ramadan, ma perché sta facendo, Ramadan. Stai buono. Ma che è islamico? È islamico? Sì, come sì, si è islamico. Come si chiama buttafuoco. Ma che, ma buttafuoco islamico è una farsa, dai, uno non come, no, è islamico veramente, sta facendo il digiuno. Un buttafuoco. Facendo il digiuno del Ramadan, non mangia, è qui a fianco a me che sta lavorando silenziosamente. Se uno è matto, che ci posso fare io? È impazzito, da qualche anno è impazzito perché è islamico. Per me buttafuoco e diventa islamico, cioè, io non sono normale, anch'io ho molte rotelle che non funzionano. Ecco, appunto, non tantissime. Farmi parlare. No, ma io ho tantissime rotelle che non funzionano. Qui ti vuole salutare. Sa benedica. Sì, che vuol dire San Benedica? San Benedica. Che vuol dire San Benedica? Che vuol dire San Benedica, però? Pietraggio, ma ti pare una persona in Occidente che diventa... in Sicilia, che fa? Ci salutiamo così, San Benedica, ti ho salutato. Benedica l'orsino, benedica il suo signore Buttafuoco. Ma uno che diventa musulmano, ma non è possibile, dai! Solo di passaggio, ciao! Ciao, Pietraggio. Ma non è normale, perché mi fai venire alla mente Buttafuoco che diventa islamico? È una roba che non è normale, dai. Ognuno di noi ha delle fisime, delle follie in testa, e lui ha questa roba qua, gli è presa questa roba qua, che devi fare? È tornato nel suo studio a scrivere, direi. Vabbè, chi se ne frega. Allora, ero in trance perché vi volevo raccontare il successo. Sì, tu spesso vai in trance. Il successo del recente di martedì, trasmissione di Floris, no? Che recentemente sta ottenendo grandi risultati rispetto agli altri di Ballarò. Voi vi direte, chi se ne frega, roba di televisione, roba che interessa Parenzo, roba che interessa qualche specialista di queste cose. Ma alla gente normale non è che si pone, non è che si alza la mattina e dice: "Toh, vediamo cosa ha fatto Ballarò, se è stato battuto da". Ma la gente normale non è neanche quella che dice: "Vediamo cosa dice una prostituta", però non è neanche quella la gente normale. Molto più normale, o che fa gli scambi di coppia, molto più normale quella, la pipì addosso come racconti tu, o che fa la pipì nella vasca da bagno. Non è quella che la gente è normale, certo, questa roba qua. Non sarà normale vedere gli ascolti di Ballarò, ma non sarà neanche normale incitare a fare la pipì nel lavandino. Devi smetterla con far passare per normale questo. Vai rotto le palle oggi. Allora, basta. No, senti, c'è un motivo molto semplice, però, che si collega al discorso che stai facendo del successo recente della trasmissione di martedì condotta da Floris, se proprio vi interessa. Ed è un motivo legato a, diciamo, a ragioni zanzaresche. Si parla alla fine di che cosa? Di pulizia personale del corpo, cioè di pulizia del corpo, ma in maniera reiterata, in maniera continua, in maniera insistente, come fosse la cosa principale, più importante. Ed è la cosa più importante, ed è la cosa principale. Ha capito tutto l'amico Floris. Probabilmente questi argomenti gli fanno orrore, gli fanno schifo, non li farebbe. Poi gli dicono: "Senti, amico mio, però c'è quella curvina che quando tu cominci a parlare di cessi, quando cominci a parlare di docce, si alza". Fate i servizi che volete, non mi interessa, manco li sento i servizi, manco li sento. Senti questa cosa sulla doccia, che viene incontro a quello che dico io. Bisogna fare poche docce, ragazzi, ormai è documentato, l'abbiamo detto per primi noi, però... bisogna fare poche docce, lo dicono tutti, pure Floris. La doccia in molti la fanno ogni giorno, pensando che igiene sia sinonimo di salute. Ma quali possono essere le conseguenze di fare troppe docce? Infezioni, batteri, micosi, quella famosa micosi, il fungo di mare, spesso viene perché ci si lava troppo. Cioè, noi lo diciamo in maniera molto più, cioè meno con questa voce meno, no? Meno tenera. Sì, esatto, meno scientifica. Sì, direi. Meno scientifica, meno però scientifica, alla fine il risultato è quello. Forse ci facciamo capire meglio noi, eh. Senti. Mamma. Quindi quante volte fare la doccia? 2-3 volte a settimana è sufficiente. Noi abbiamo un film idrolipidico che la nostra pelle produce, che è un potente antibatterico, antimicotico. L'acqua calda, per esempio, lo asporta drasticamente. Dunque bisogna evitare l'acqua calda, però, amici miei, adesso io le poche volte che me la faccio durante la settimana d'inverno non faccio con l'acqua fredda, Come però no? No, acqua io calda. Ti confesso una cosa. Dimmi. Io mi faccio tutte le mattine, come sai, la doccia calda. Acqua fredda. La doccia calda. Gli ultimi due minuti, giro velocissimamente il coso sul freddo. Perché vuoi fare acqua calda, acqua fredda? Ancora credi a queste puttanate? No, aspetta. No, siccome sono non bisogna insaponarsi tutto il corpo, no? Ma chi l'ha detto questo? Sempre gli amici di Floris. Ma come sono saponati? Senti, che dite? Laviamoci solo le parti intime sotto la doccia, le ascelle, i genitali, senza insaponare tutto il corpo. Ma cosa può provocare tutto questo sapone? Innanzitutto la secchezza cutanea, che è fastidiosa, pensiamo solo al prurito, ma anche superinfezioni batteriche, micotiche. Allora, mi scrive Mauro Corona, Mauro Corona, vedi che avevo ragione? Poche docce. Mauro, ti adoro. A dopo. Cambiate spacciatore a Parenzo. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24. La passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi, europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Luciani e Parenzo, siete solo due minchioni, questa è la verità di oggi, ciao. Cruciani, ascoltandoti ho capito finalmente il concetto di utile idiota. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora partiamo subito con Lazar da Brescia. Avanti Lazar, avanti Savoia, vai. Shalom David. Oddio, shalom, questo parte Lazar, con shalom, shalom. Parte shalom. Con shalom. Shalom, oh, io intanto ho salutato David. Sì, oh, dimmi, dimmi, dimmi. Shalom, Lazar. Ascolta, ma non hai di problemi con i musulmani, signor Cruciani? Io non ho nessun problema con i musulmani, amico mio, nessuno. Ascolti. Sì. Tu sei ascolti, islamico? Tu sei islamico? Certo, sono islamico. Ecco, sono abbastanza curioso, sono abbastanza curioso di capire. Tu, per esempio, l'Islam nel campo sessuale, che cos'è che indica di fare? Cioè, che cos'è che non si può fare secondo l'Islam, caro Lazar? Secondo l'Islam, allora, deve sposarti prima, deve essere il rapporto sessuale entro la relazione, diciamo... dichiarata. Vabbè, non si poi può fare, non si può i fare... rapporti sessuali, sì. Tutte le schifezze, tutte le schifezze che non lo so, il sex sana ad esempio, tutto quelle lì non vietato dalla religione musulmana. Quale, è vietato. Quale, poi, sarebbe, quale sarebbe una schifezza che è vietata? Scusa, quella che voi chiamate schifezza, caro Lazar. L'ana, ad esempio, la roba che ti piace a te, praticamente. Che cosa? La sodomia? La sodomia? Sì, anche. Anche, ah, cioè il sesso anale secondo l'Islam non si può fare? No. Ma secondo no, qualunque religione no. Questo però? E poi, ma non credo secondo qualunque religione. Beh, sì, sì. Allora, e poi dopo, il buttafuoco, sì. Se ho capito bene, perché... Vabbè, ma adesso chi se ne importa? È diventato islamico? Vabbè, ognuno sì, ha le sue stranezze. Allora, perché, dai. Ma cosa cambia per te? Perché se ti incazzi, porca miseria? Ma chi si incazza? Me ne fotto. No, prima, ti ho sentito prima... Tu prendi in giro i musulmani, ascolta i musulmani. Ma che prendi in giro i musulmani? 700 milioni, 1.700 milioni, non sono coglioni tutti e signor Cruciani e il Lazar, più, io parlavo di quelli, più. Io parlavo di quelli che si sono convertiti in Occidente, in Europa, dopo una vita passata in questo mondo, sì, che diventano ma musulmani. Cambia, ma cosa, ma a me non mi cambia così, niente, me ne allora, fotto. No, ma così ti stai parli in un modo disprezzativo dell'Islam così. No, no, no, Lazar, hai qualcos'altro da dire? Hai qualcos'altro, hai qualcos'altro da riferire? Caro mio, invece è così, caro mio. Vabbè, dai, hai qualcos'altro da riferire alla platea no, o no? No, no, però l'ultima cosa... L'ultima cosa, vai, Lazar. Hai di errori sulla tua sistema di educazione, Sì. Errori, sì. Beh, sì, quello sicuramente. Sì. Nel mio sistema educativo qualche errore c'è stato, sì, perché... Beh, sì, questo è sicuro, ha ragione su questo. Installa qualche bel antivirus che ti toglie queste virus. Ah, l'antivirus. Nella tua sì. Testa, caro mio, hai capito? Vabbè, Lazar, ciao, ti saluto, ciao, ciao. Andiamo a Lucca, Fulvio, vai. Fulvio, buonasera, vai, dimmi. Ho usato a livello familiare il nominativo di due stronzetti stasera. Scusa sì. Il termine, ma in che senso, stasera scusa? Io ti difendo sempre, ma stasera ve lo meritate. Cioè, perché che abbiamo fatto? Che abbiamo detto? Mi scusi, mi scusa. Sì, l'hai detto per la terza volta, mi scusi, sì, dimmi. Della Mussolini, ha detto che è un kamikaze. Parli sempre male dei kamikaze. Ma che c'entra? È lei che si è autoproclamata kamikaze perché dice che ha impedito alla Meloni di arrivare al ballottaggio. Dai. Con quell'altro chihuahua che tu hai accanto, l'hai. Chihuahua, sì. Sì. È un chihuahua di una comunità, ma è un chihuahua perché un devono chihuahua. Stare lì a controllare la situazione. Sì. Vabbè, allora, allora che cosa, qual è il problema? Qual è, non ho capito qual è il punto. Devi, vanno condannate a 360 gradi tutte le volte, chi? Tutti i momenti, i kamikaze. O me le condanni sempre. Vabbè, o non me le condanni. Stai facendo mai una stupida ironia. La Meloni, tra l'altro, ha risposto a quello che ha detto la Mussolini, dicendo: fa un certo effetto vedere una Mussolini vantarsi di una badogliata, roba naturalmente comprensibile no, a tutti. Naturalmente. A chi conosce la storia, perché vai, chi andiamo, la storia. Andiamo a Luca Venezia. Vai, ragazzi, sveglia, forza, Luca. Ciao carissimo, vai, volevo chiedere al caro Parenzo, che io reputo una persona erudita, sì, una domanda. Volevo chiedergli, secondo lui, la differenza comunque fra normalità, diciamo, cioè vorrei che lui mi definisse. Ragazzi, non mi fate annoiare, però, eh. Non mi fate, io sono abbastanza facile all'annoiamento. Non cosa mi fate annoiare sapere, con banalità e domande ridicole che lei potrebbe rivolgere in una qualsiasi altra trasmissione. Non mi fate annoiare, Luca, vai. Secondo lui, allora, cos'è che era la normalità? Cos'è che è una cosa normalità? Un po' complessa, cioè, come domanda, ma che no, vuol dire? È molto semplice. Io penso che non sia normale tutto ciò che il nostro amico Cruciani fa passare invece per normale. Ecco, questa è la risposta molto semplice. Non è normale fare, incitare a fare a lavarsi, a non lavarsi, a fare la pipì nei lavandini, a farla per strada. Non è normale fare queste ammucchiate. Non è normale tornare a casa e augurarsi che la propria compagna sia in compagnia di un altro amichetto. Questo è un mondo che secondo me non è normale. Vabbè, ciao Luca. Ragazzi, ci sono alcune notizie che dobbiamo dare. La prima è questa: il Tribunale di Milano, secondo me con una sentenza abbastanza incredibile, ha aperto le porte praticamente ai migranti economici, cioè potete venire tutti da questo momento in poi, perché c'è un giudice a Milano che ha detto, rispetto ad un giovane del Gambia che chiedeva il permesso di soggiorno, che siccome ha fame, può restare, cioè la fame, cioè la povertà, la fame è sostanzialmente un motivo per cui uno può venire in Italia e può ricevere un permesso di soggiorno. Tantissimi auguri, Parenzo, tanti auguri. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol no, dire? È povero, ha fame, dunque può restare. Va bene, tu sarai d'accordo sicuramente, no? Cioè... Ma mi pare, se voglio leggere la sentenza nel suo complesso, ovviamente, sì, vabbè, mi pare certo, una sì, cosa... Normale, cioè se uno ha fame deve essere accolto. Cioè questa è la tua cosa, se uno ha fame deve essere... Ma va bene, per carità. Ma questo è un principio anche cristiano. Sì, non... ma che c'è? I principi normale. Cristiani si scontrano qualche cosa volta con l'organizzazione di uno Stato, no? Cioè, beh, se uno ci dice... mancherebbe altro. Ecco, cioè... appunto, siccome uno, se uno dice, un giudice, è povero, ha fame, dunque ha diritto a permesso di soggiorno, per me è una follia, perché c'è un sacco di gente che ha fame nel mondo. Se uno dice, ho fame, voglio venire in Italia, questo permesso non di soggiorno. Ma vuol dire aprire le porte a tutti. Ma non ho una detto questo, è un principio che si afferma. Un comunque principio la che cosa si più interessante, invece l'ha detta Renzi pochi secondi fa. L'altra cosa ridicola, ridicola, succede in Sardegna, adesso io non so se sia vera questa cosa qui, questa circolare della SL di non so dove, di Sassari, che siccome è previsto uno sbarco, scrivono in sostanza che bisogna fare dimettere i pazienti per far posto ai migranti. Dimettere i pazienti per non vuol dire velocizzare le dismissioni infarto. Dei pazienti per far posto ai migranti. Ti dico solo questo. Giuseppe da Padova, vai. Giuseppe. Dimmi. Ciao, intanto quest'ultima che hai sentito di Porto Torres lì è una bufala, palesemente una bufala. Ah, una bufala, una bufala. Due. Bene, no, sì, bene, sì, per carità. Palesemente. Infatti ho detto se fosse vero, eccetera, eccetera. Una bufala, bene. Sì, sì, sì, una bufala palese. E, un'altra cosa che volevo dire io è questa, no? Allora, io vi ascolto da circa 3 anni, ok? Quindi sì. Vi ascolto da sempre e vi ascolterò sempre perché la zanzara. Dai, ragazzi, però velocizza la cosa, dai, Giuseppe, cosa vuoi dire? Dai. Però stasera, cioè, io devo dirvi delle cose. Cioè, allora, io ho sentito Gasparri ieri. Sì. Ok? Ho sentito tu che dicevi Marione, Adinolfi, così. Ma di solito quando chiamo qualcuno e dice stronzate. Cioè tu Beppe in primis sì, e Parenzo no, tu devi essere specifico però, devi essere specifico. Che cos'è che ti sta sui coglioni? Che cos'è che rimproveri? Dillo, non l'atteggiamento generale. Perfetto, dillo, perfetto, a parte che c'è una differenza tra le interviste e altri interventi degli ascoltatori. Lo dovresti avere capito già da un pezzo. Qual è sì? il punto? Mi spieghi qual è il punto? Il punto è che avete un atteggiamento di, non dico di servilismo, però uno come Gasparri che dice una marea di stronzate, basta guardare Twitter, quello che scrive su Twitter quell'uomo, dice una marea di stronzate, Parenzo non gli dice salame, come dice salame a tutti quanti quelli dipende. Che chiamano. Ma dipende dal contesto, non è tutto uguale. Non è tutto uguale. Gli ospiti non si trattano, gli ospiti come gli ascoltatori, che pari sono, non si trattano tutti allo stesso livello. Dipende dal contesto, dal momento, dalla ragazzi, cosa. Mi avete rotto i coglioni con questo, con questa discussione. Mi avete rotto i coglioni. Ayamed da Torino, vai. Ciao Crociani, dimmi. Volevo dirti che io ti ascolto da un bel po' di tempo, io faccio il cammino. Ma chiamano tutti islamici stasera, pure tu sei islamico. Meno male, sì, ecco, no, va benissimo. Volevo collegarmi all'altro radioascoltatore, che comunque non è che una sola persona che si è lamentato, parecchie persone che di fedi musulmane, comunque loro si lamentano che tu non lo vuoi dire. Chiaro e tondo. Ragazzi, io però penso che l'Islam sia una religione retrograda, una religione spesso incompatibile, spesso incompatibile con i nostri valori, con i nostri valori. Ma allora, che siccome noi in tutto il mondo bisogna rispettare qualunque credenza, allora tu le devi rispettare. Ma io rispetto tutti. Noi prendiamo per in giro chiunque. Non ti preoccupare. Non puoi prendere per in giro comunque, perché anche lei nella fede, nella sua fede, non ho mai sentito criticare la sua fede. Ma come la voglia? Come no? Io sono il capo degli anticlericali. Ma che dici, Ayamed? Non ho mai sentito criticare la sua fede. Ma io non ho nessuna fede, per cui che devo criticare? La deve smettere. Sì, perché se no che succede? Perché se no che succede? Se non la smetto, che succede? Non succede nulla, però lei deve portare rispetto. Se lei pretende rispetto della gente, lei la deve acquistare. Se no che succede? Non ho capito. Deve essere reciproco, hai capito? Se no ti mandano a fanculo, chiamami e mandami a fanculo su cose precise, però non in generale, manchi di rispetto, eccetera, eccetera. Io sono educato, cioè siccome io sono educato, io non ti mando a quel paese, però ti dico semplicemente, devi portare rispetto. Sì, devo portare il rispetto, devi portare rispetto alla religione, rispetto, ma vai. La cruciate, sto a vedere sulla telecamera. Certo che c'è proprio la guerra del Golfo in testa, eh. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, mentre in America c'è un pastore psicologo cristiano americano che si chiama James Dobson, che dice: sì, uomo, spara i trans che usano il bagno sbagliato. Ogni uomo sposato difenderebbe la propria donna nella privacy di un bagno pubblico. E cosa accadrebbe se un uomo vestito come una donna si infilasse nei cubicoli della toilet per spiare tua moglie nei momenti privati, o si abbassasse la zip per urinare di fronte alle tue figlie minorenni? Se fosse successo 100 anni fa, la risposta sarebbe stata una sola: sparare a vista. Cosa è successo agli uomini di oggi? Dio ce ne scampi. Questo in America, dove un pastore, psicologo cristiano americano, psicologo pure, pensate, James psicologo Dobson, o psicotico? Cioè, probabilmente psicotico, sì, però ecco, formalmente psicologo. In Italia c'è un prete che si chiama Pusceddu, signor Pusceddu. Sardo mi pare Pusceddu, sì, il nome. Pusceddu. Non mi ricordo esattamente adesso di dove. Vabbè. Il quale dice i gay meritano la morte, citando San Paolo. Cioè non hanno nemmeno il coraggio di dirlo direttamente questi preti, ma citano una lettera di San Paolo, un passaggio di San Paolo, una mail di San Paolo, la mail di San Paolo. Sentite questo Pusceddu, prete esorcista ex pugile. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. grazie ragazzi. Allora, caro Parenzo, c'è un caso ancora che riguarda i profughi in Emilia-Romagna, esattamente a Reggio Emilia, sì. E c'è collegata con noi la presidente, la responsabile della mensa del Vescovo, la mensa del Vescovo, si chiama Maria Chiara Visconti. Buonasera, beh, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, grazie che portate, che guardate a questo nostro problema. Allora no, il problema c'è perché da quello che lei dice, sì. C'è, ci sono una serie di profughi, 30, 40, sì, 50, che vengono, prendono e buttano il cibo. È successo che questi sono venuti, hanno preso la roba e l'hanno buttata via. Questi che cosa profughi hanno buttato innanzitutto? Tutto. Tutto. Noi diamo, come diciamo, 360 pasti giornalieri, sì, dal lunedì al venerdì gratuiti, nel, sì, quale che sono composti da primo, secondo, contorno, frutta, dolce quando c'è. Chi paga? Beh. Paga la mensa del Vescovo, con gli aiuti che ci dà la città, sì, con gli aiuti che vengono dati dalle fondazioni. Dunque in parte soldi nostri. La carità, proprio, la carità cristiana. In parte soldi nostri. No, che vostri, volontari. Certo, volontari. Beh sì, e quelli del comune sono soldi nostri. Ma ci sono anche quelli. Perché buttano questo cibo? Glielo vado a chiedere lei, non lo so. Ma ci sarà, perché non gli piace, perché pensa, ecco, che... Secondo me sì, noi il credo religioso lo rispettiamo e le giuro che tutte le volte che noi abbiamo maiale e ci regalano tanto salume, noi lo regaliamo, sì, noi lo diamo, noi diamo sempre l'alternativa. Questi sono venuti con l'aria spavalda, sì, hanno preso, si sono serviti, sono arrivati al loro posto, hanno preso, buttato via tutto quello che... L'aria spavalda tutto. Che vuol dire? Che sono arroganti? Ma perché sono, ma sono dei ragazzi, allora, questi fanno parte di Mare Nostrum, no? Parliamo, sì, chiaro, cioè questi emigrati, questi che vengono a Reggio, sì, vengono accolti, vengono messi negli alberghi, viene dato loro un cellulare, vengono vestiti, sì, viene, beh, dato un buono mensa, che però non è il buono mensa a noi, è il buono mensa presso una tale mensa. E da voi che vengono a fare? A prendere un altro pasto, diciamo? È quello, il problema è solo quello. 50 persone in più sono tante. Per di più queste vengono, a volte fingono di non capire quando tu chiedi dove sei, di dove vieni, eccetera, perché ti rendi conto che non sono quelli che vengono tutti i giorni, no? Sì. E poi dopo prendono, buttano via, quella volta lì mi sono veramente arrabbiata. Evidentemente questi qua non muoiono di fame, diciamo la verità. No, ecco, quello, ecco, parliamoci chiaro. Allora io faccio anche fatica a raccoglierli questi soldi. Certo, ma muovere tanto, no? Evidentemente non sono tutti dei disgraziati che hanno ecco. Arrivano magari qualcosa col loro telefonino, col tablet, come arrivano? Ma che tablet? Ma come il tablet? Come no, col tablet. Il tablet, le giuro, il tablet. Vabbè, comunque non mi sembra questa la questione, su. Arrivano col tablet, arrivano lì col tablet. Arrivano col tablet, arrivano col tablet. Beh, arrivano col tablet. Arrivano col tablet. Ma se uno ha il tablet, no, non è una cosa proprio. Le dico che non è una cosa proprio da ridere, perché. Sì, ma se questi qua, questi devono dare, devono dare da mangiare ai poveri, si presentano persone con il tablet e uno si arrabbia, amico mio. Ma cosa stai dicendo? Cosa dite, ragazzi miei, signora mia? Dai, ragazzi, su, basta. Perché? Ma perché? Non ho capito. Basta. Ho detto basta, dai, mi avete un po' stufato. Ma non ho capito. Con tutto il rispetto. Tu no, in particolare, questa cosa veramente mi dà anche un po' fastidio. No, un momento. Se lei fosse lì, ragioniamo. A dar da mangiare. No, lei ha ragione, ma ragioniamo. Ora, ecco. Signora Cruciani, mi scusi. Signora Cruciani, mi scusi. No, ma che signora Cruciani? Si chiama Visconti, che c'è? La pensa come te. Non la pensa come me, è arrabbiata perché questa si presenta gente arrogante con i tablet e con i telefonini che butta la roba da mangiare. Calma, serenità, tranquillità, pacatezza, mediterraneo, come diceva Prodi. Bisognerebbe, allora, però calmiamoci. Volte non si riesce. Ovviamente su 100 persone che arrivano ci saranno 5 idioti, come no, in qualunque società. In questo caso sono 50. Non sono 100 le persone, ma sono 360. Va bene. A cui allora, diamo da tra tutti, gratuitamente in 2 ore e mezza. Appunto, è evidente che il cretino c'è, perché c'è dappertutto. Non è che possiamo pensare che tra 10 migranti siano tutte brave persone. Sono quei 50 ancora lì? Scusi signora Cruciani, un istante solo, mi perdoni. No, allora, gli sconti. Vabbè, però la pensa come Cruciani, quindi mi sono confuso. La penso come Cruciani, esattamente uguale a lui. Uguale a Cruciani, appunto, quindi signora Cruciani, mi perdoni. La cosa che volevo dire è questa. Non si può in questa fase in cui c'è questo allarme, arrivano con il telefonino, perché si dà un'idea che siano persone ricche, no, ricche avere... con la puzza sotto il naso, che rifiutano il cibo, hanno anche il telefonino. Si dà un messaggio che è distorto, secondo me. Ma il tablet dove lo prendono? Il tablet dove lo prendono? Che lo danno, ma lo prendono quei soldi che gli danno loro. Parliamoci chiaro. Se prendono 40-39 euro al giorno, provi a pensare cosa. Ma è l'unico modo per comunicare con l'esterno, tesoro. Come si. Cioè, ma io sono allibito. Ma per amor di. Ma signora Cruciani, mi scusi. Modo è modo, è modo. A lei andrà bene. A me non va bene. Grazie, signora. Grazie. Te sei messa a litigare pure con la signora del coso, Davide, pure con la signora della mensa, no, dai. La signora Cruciani, si ma che signora Cruciani, signora Cruciani, dice le cose ragionevoli, che si incazza se uno arriva col tablet, col telefonino, prende il cibo e lo butta, ma non è il populismo, è la realtà, prendete un episodio microscopico e lo trasformate in un caso mondiale. No, che è straevidente, come ho detto alla tua parente, la signora Cruciani, che della Caritas, che è ovvio che su 20-30 persone qualche imbecille c'è, perché è fisiologico, c'è dappertutto, allora, c'è dappertutto, è ovvio. Una signora di non so che cosa, Rifondazione Comunista, Rifondazione Comunista scrive: sarebbe davvero un buon anno se anche Berlusconi seguisse a ruota. Davvero un buon anno se anche Berlusconi seguisse a ruota. Si chiama Roberta Ucchedu, di Rifondazione Comunista, consigliera comunale a Guspini, immondizia. Poi naturalmente è tornata indietro, si è pentita, ha cancellato la frase incriminata, ma è quello che pensa, perché le prime volte che si dicono le cose è esattamente quello che una persona pensa. Immondizia, un bel silenzio scritto. Dici sempre le stesse cose. Però è questo. Oh ragazzi, sono al casello di Carisio e sto ridendo. La Zanzara. Allora ragazzi, parlavamo ieri di Platì, dove paese della Calabria, considerato uno dei centri dell'Andrangheta. Ieri il sindaco ha detto da qualche parte che non ci sono, secondo lui, infiltrazioni mafiose a Platì, cioè neosindaco che è tra l'altro accusato di avere delle connessioni da parte della commissione antimafia, di avere delle connessioni con alcune famiglie chiacchierate della zona. Ma continua il nostro viaggio, vogliamo fare qualche telefonatina sempre a Platì? Io sono molto curioso, ci sarà qualcuno di 30 anni, 35 che risponde al telefono a quest'ora? Che dici? Cioè Platì, ma conoscono il significato della parola Andrangheta? Sono disposti a dire vaffanculo l'Andrangheta, l'Andrangheta è uno schifo, è una merda? Sentiamo, io proverei a fare qualche telefonatina, chiamatemi, come si chiama questa famiglia? Barbaro, come si chiama? Boh, fatemi qualche numero di quelli che ci siamo preparati al volo, vai, ecco, bravi. Sì, buonasera. Buonasera. Istituto Sondaggi. Sono tutti tristi. Salve, stiamo facendo un'indagine su Platì. Salve, lei conosce il significato della parola 'ndrangheta? Sa c'è 'ndrangheta, perché sono malata che vengo all'ospedale, non sa c'è sto corso. Sì, ma lei sa che cos'è la 'ndrangheta? Sa c'è 'ndrangheta, figlio, non sa c'è manco bene a dire. Sì, ho capito, ma che cos'è la 'ndrangheta? Prima che non sa che vengo all'ospedale, ha ragione, state mi stare, figlio. Sì, d'accordo, ma la parola 'ndrangheta, lei lo sa che cos'è o no? Non sa. Non sa niente, lei, sa. Niente. Sa c'è che sì. L'andra, ripeta con me, 'ndrangheta. Capo, non sa c'è che bene a dire. Ma che cosa? Ma... non sa c'è manco scrivo. Ma cos'è la 'ndrangheta? Sì. No, era bello il crescendo. Non saccio. Pare che poi, da quello che ho capito, stava pure male sta signora. Siamo, sì, veramente, poverina, siamo veramente dei pezzi di merda. Però sono tutte cose casuali, qui fatte al volo. Riproviamo un po' un altro di quei numeri là. Vai. Avanti Savoia. Hanno unificato l'Italia poi, tra l'altro, pure, no? La Calabria, no? Pronto. Sì, buonasera. Istituto Sondaggi, salve, buonasera. Come? Istituto Sondaggi, buonasera. E che volete? Sì, buonasera. Stiamo facendo un'indagine su Platì. Come? Stiamo facendo un'indagine su Platì. E che volete? Sì, volevo sapere, secondo lei esiste l'andrangheta? Vai dite, non faccio dati, cacana c'è che andavi. No, ma lei la conosce l'andrangheta, la parola andrangheta? Io prima to conosco. Come? Prima toi. I? Cos'è che ha detto i pruna tuoi? I pruna. Non so cosa, no, cioè, ci ha minacciato. Ci i sottotitoli, è un'altra zona, non riesco a capire proprio il linguaggio. Le palle mi dicono, le palle. Cosa le palle? La signora, la vecchietta, ha detto, conosco le tue palle, le palle tue. Sì, pruna. Ma perché la conosci la signora? No, non so chi è, un casuale sull'elenco telefonico. Casuale, sai. Enrico Ancona, vai, Enrico. Enrico, vai. Che sta a fare questo? Dimmi Enrico, sì. Vai. Ascoltami, Cruciamo. Dimmi Enrico. Sì. Dai, abbassa sta radio, forza, abbassa sta radio, Enrico, dai. Sì, ma abbi pazienza. Dimmi. Ma questo non sa neanche telefonare, però, ragazzi, belli, su. Stai facendo uno. Ti ricordi Carlo Campanini e Walter Chiari? Voi siete la coppia di comici. Parenzo fa la spalla. Vabbè, dai, Parenzo, Enrico, vai al sodo, vai, che vuoi dire? Ma io voglio dire che niente, non si sente un cazzo, dai. Massimo da Genova. Non sa neanche telefonare questo. Dai, buonasera. Forza. Massimo, da 3 ore per stare là con la radio accesa, poi alla fine si sente male. Vai a fare in culo, vai. Massimo, dai. Buonasera, lei ieri sera ha passato una notizia che mi ha colpito. Cioè che avevano dato 3 mesi a Casarin perché aveva occupato una casa. Casarini, sì. Casarin era l'arbitro. Casarini, mi scusi. E oggi ha annunciato che farà disobbedienza civile. Uno occupa la casa e fa disobbedienza civile. No, oggi ha detto che non andrà ai domiciliari. Ieri sera la notizia che lei ha dato direttamente a tutti, naturalmente Parenzo ha risposto che era stata una decisione esagerata, che quello era un atto politico, eccetera. Io ritengo che uno prende un atto politico, occupa un posto. Va bene, faccio un atto politico. Faccio un atto politico, occupa un posto. E infatti si è assunto la responsabilità, è stato condannato. Non è che condannato. E ha detto che adesso farà disobbedienza civile. Secondo farà me fa disobbedienza civile. Giusto, certo, giusto. Ragazzi, se avete un problema, la casa era sfitta. Ma che c'entra che era sfitta? Ha fatto un atto politico. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega dell'atto politico? Non dà dignità a nulla. Ma no, ma ce ne sbattiamo i coglioni. Chi se ne frega? Hai occupato una casa, vai a fare in culo. E Luca Casarini ha fatto chi una se ne frega? E oggi, a fronte della condanna che subisce, pazienza, dice va bene, farò disobbedienza civile, cioè non rispetterò la condanna. Vabbè, e quindi una cosa eroica. E quindi, siccome non se ne starà i domiciliari, violerà questa disposizione. Bene, va bene, disobbedienza civile. Ce ne faremo una ragione. Secondo me, aperta parentesi, fa pure bene. Sì, fa pure bene, certo, perché chiaramente uno per motivi politici dice occupa un posto, va benissimo, per no, carità. Così le cose vanno sempre contestualizzate, non è certo tutto uguale. Siccome Casarini no, se altri occupano una casa uguale. Ti indigni. Non è tu dipende, non vabbè, è tutto uguale. Dipende, sì, certo. Non è tutto uguale, non è stata fatta violenza privata, vabbè, la casa non era fa violenza privata. La casa era dello Stato, e chi se ne frega? Gestita dal pubblico. Ma chi lo decide sfitta? Quando una cosa è buona la o no, lui? Era... Non ho detto dai, che la decisione del magistrato probabilmente è giusta tecnicamente. Non voglio sentire più niente. Marina Ripa di Meana con noi, buonasera. Buonasera carissimi, mi raccomando, ecco. Andateci piano con gli insulti e vaffanculo, No, ma chi? No, che c'entra? No. Questo... Ho sentito ora. Vabbè, ma senti, ma che stai facendo? Mi dicono che stai facendo un massaggio. Sì, grazie a Dio perché c'ho i piedi gonfi. Ma chi te lo sta facendo un massaggio? Mi spiace. Vabbè, questo non ha importanza, adesso andiamo oltre. No, importante, un massaggiatore maschio o femmina? Femmina, massaggiatrice dunque, ma brava? Molto brava. L'indirizzo? No, è a Roma purtroppo, magari serve a Parenzo. Bel massaggio ai piedi, solo ai piedi? No, non mi piacciono i massaggi ai piedi. No, perché? Ho detto che non mi piacciono. Per me in questo momento sono molto importanti i massaggi ai piedi. Bene, però. Ottimo. Ma perché? Rilassati, mi raccomando, che oggi hai faticato tanto, rilassati. A una certa età dici che... ci si affatica con questo quando appena oggi arriva hai al caldo. Sì, cioè si gonfiano i piedi, no? Diventano zampogne. Quello è normale. Non ti buttare così giù adesso, zampogne ai piedi, sembrerebbe dai un'immagine terrificante. Cioè Marina di Pedimeana non può avere i piedi grossi, cioè non può avere i piedi no, per punto, ma per me anche un po' ingrossate, sono zampogne, perché ci ho sempre avuto dei piedi abbastanza sottili. Questo sottili. Mi spiace. Esatto, esatto. È normale, no? Che uno fa una giornata di lavoro, torna a casa e fa massaggio. Che dei lavoro, piedi, scusa, che lavoro fa? Ma che no, lavoro? Dico, io non ho accavato, ma mica vado appunto, in ufficio io. Appunto, ho detto già, ho una giornata faticosa. Non fai un cazzo da mattina. Non faccio un cazzo, in più va a casa e fa massaggiare i piedi. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Questo lo dite voi. È tutto normale, dai, comunque. Abbiamo già parlato, andiamo oltre. No, ma voglio dire, non fai niente, non è una cosa positiva. Io se potessi fare come te, non fare niente dalla mattina alla sera. Cioè, hai già dato, vabbè, diciamo, hai già dato, no? Da quel punto sì, di vista. Vabbè, sono in pensione. Ecco, allora. Esatto, brava, sei in pensione. Senti, ma ti voglio chiedere una cosa, ma per chi voterai a Roma? Perché è importante saperlo, da un certo punto di vista. Cioè, guarda, io ho votato scheda bianca perché un voto di protesta, non mi interessa nessuno, hanno avuto il coraggio di presentare dei personaggi uno peggio dell'altro. Beh, peggio dell'altro. Però a questo sì, ma, vabbè, non mi piaceva nessuno, non condividevo con nessuno. Giacchetti è una brava persona, mi pare. Vabbè, non gli piaceva nessuno, ha votato scheda bianca. Non mi piace Giacchetti, non mi piace nessuno, ma io sono adesso dell'idea quasi sì, di votare la Raggi, perché vorrei che Renzi perdesse le due città, Roma, Milano e anche altre. E com'è che sei così avvelenata con Renzi? Non è che sono avvelenata con Renzi. Cioè vuoi che cada rovinosamente? Certo, vorrei che cadesse, perché mentre è stato positivo all'inizio, perché ha fatto fuori tutti i vari personaggioni comunisti, davvero tromboni comunisti, dopo non ha fatto più niente, ha solo semplicemente raccontato un sacco di balle, diciamo. Di balle, di cose inutili, di cose da per darla a credere, per anche gli 80 euro, pare che abbia richiesti pure indietro. Certo. Ma tu l'hai chiesto, tu l'hai preso gli 80 euro, no? Magari sì. Beh, adesso sono sempre molto povera, ma ancora non appartengo proprio alla situazione. Alla situazione? Cioè, sei povera, ma non... Intanto ti fai fare un massaggio ai piedi. Punto, ecco, tanto... Come va il massaggio? Come va il massaggio? Bene. Fermi che c'è la pubblicità, poi torniamo con la mitologica Marina Ripa di Meana. Non ascoltare la zanzara è peccato! La zanzara. Alla puntuale e condivisibile riflessione dell'onorevole Capezzone. Colleghi, è su, forza. Allora. Giacchetti, poverino, Giova. Sono due giorni che vaga sotto shock. Sembra Leonardo DiCaprio dopo che ha combattuto con l'orso. Non riesce nemmeno a salire sullo scooter, Giova. Per tornare a casa ha chiesto un passaggio a Marchini, che non vedeva l'ora che finisse questa farsa per riprendersi sta cazzo di Ferrari. L'unica che l'ha presa bene è la Meloni. Ha detto solo che le dispiace un po' per quella figa che c'era sui manifesti. In fondo è un peccato che lei ora sia fuori dai giochi, perché io, Giova la Meloni, ce la vedevo bene col fascio da sindaco. Fascia. Marina Ripa di Meana con noi from Rome. Carissimo, mentre si qua. Fa un massaggio ai piedi. È finito il massaggio, ancora prosegue, cara Marina? Prosegue sì, bene, sì. Mentre fai l'intervista, stupendo, meraviglioso. Dunque voterai per la Raggi, ma perché? Che ti sembra della Meloni? Dimmi qualcosa sulla Meloni. Perché non hai votato la Meloni? Ma insomma, prima di tutto io trovo che, insomma, che trovi? Si occupasse del figlio che gli deve arrivare. Mettersi in una città sbandata come questa, arrivata la frutta come questa, darla a una persona che pure insomma è incinta, non è cosa facile. No, non è che non è bello, perché non perché non sia in grado di fare, perché sia una cosa, però tu dici è troppo gravosa come cosa. Tanto. Non è troppo gravosa per tutti. Sì. Immaginati una, perché che è una cosa, una tegola che io non so come fanno accettare. Perché veramente Roma ci vorrebbero cinque sindaci o forse nessuno, ma come si fa a pensare che, avendoci un figlio, il primo figlio l'ha avuto pure in una città in età grandina, ti ritrovi pure a governare una città che ormai sembra Gomorra, perché Roma oggi sembra Gomorra. Addirittura, ma adesso Gomorra. Non esagererei, dai, non comunque per carità. Dai, adesso non è che esci da casa tua e ci stanno le pistolettate, dai, su. Tu abiti in un posto. No, non lo intendevo dire per dire pistolettate, lo intendevo non dire. È che esci, non è che esci da casa tua. No, mi sono sbagliato, non ho detto Gomorra, volevo dire la Suburra, proprio la cosa più. Hai detto Gomorra. No, mi sono sbagliata. No, non intendevo, hai capito? Proprio, cioè, non è che esci da casa, adesso esci da casa tua, che scene vedi a casa ma tua, che quartiere niente, Prati? Cosa vuoi che veda? Vedo il terzo mondo, perché vedo casse di sì, vedo casse di immondizia buttate vicino al portone. Con un po' di immondizia c'è. Sì, marocchini ovunque, marocchini ovunque. Ma che c'entra i marocchini? No, ma adesso non sto parlando neanche di marocchini, a parte quello ci sono in tutte le città, ma la gente arriva e quello non è, ma proprio la sporcizia, le buche che caschi, zingari pure in giro, zingari che entrano qui, appena entrato ieri l'altra sera uno qui a rubare nell'appartamento accanto. Vabbè, questo è grave, zingaro? Zingari, certo, zingari erano. Erano zingari, sì. Pure da te sono venuti a pizzicarti, no? No, sono venuti a rubare qui, non ho mai saputo se erano zingari o no. Però vogliamo dare l'indirizzo? Che dici, Parenzo? Diamo l'indirizzo. Non so se è il caso. Diamo l'indirizzo. Non diamo l'indirizzo, però insomma, Parenzo che abita qui da queste parti, sì, può dire come sono ridotti. Come beh, sono si pieno ridotti di zingari che fanno rubare le case. Parenzo, a casa tua? No per carità, adesso casa mia lascia stare. Arrivata alla frutta, sembra veramente. Sì, un po' caracci, sporca, ma insomma, sì, caracci, sicuramente sporca. Caracci, adesso ragazzi miei, su, ci vivo io. Cioè, puzza, per esempio, la puzza, Marina, senti puzza quando. Sì, adesso certo, si sente molta puzza. C'è gli odori in giro. Col caldo temo che si sentirà ancora di più. Adesso certo uno fa anche un po' dei paradossi, ma la vogliamo far diventare veramente caracci? No, se non si interviene ci diventa. Non ecco. C'è dubbio. Senti, in tutto questo ci sarà il Gay Pride, in tutta questa roba qua. Roma fra poco ospiterà il tradizionale Gay Pride. Cioè tu che fai? Vai là giocosamente? Non ci penso proprio perché il Gay Pride è una, per me non lo condivido, è una lottizzazione, perché oggi non si possono lamentare, sti gay stanno benissimo, qual è il problema? Vabbè, è una festa, dai, una festa. Una festa che non mi interessa, è una ghettizzazione di una cosa. Ma che come oggi lo trovi dal punto di vista estetico il Gay Pride? Lo trovo una cosa inutile soprattutto. E anche poi, volgare, pure volgare? E poi quando naturalmente ci sono dei lati anche molto pecorecci, certo, molto volgari, perché quando vedi quelli che con i grandi falli in mano, insomma, che vabbè, ma quello sai. Beh, insomma, c'è di meglio, che possibilità, che cosa c'è di andare. Fallo, vabbè, ma adesso non è che c'è gente che ciuccia. Non è che c'è gente là con i falli enormi che ciucciano i falli. Ho visto al Grey Pride, ho visto più di uno che ciucciava il fallo di vabbè, non vero, però beh, enormi sì, falli che ciucciavano. Enormi falli, stava una cosa incredibile. No, io non ho capito, al Gay Pride, signora Marina di Petimiana, sì, ha visto, dice, no, ho capito, durante questo passaggio, non è che non ho capito, ho capito. Dice, ma ha visto falli enormi finti ciucciati dai gay. Ma che sono controproducente. Ma quali falli leccati, dai, ragazzi miei, su. Ma se li ha visti, sti falli. Ma dove li ha visti sti falli leccati, dai, ma di che cosa parlate sempre, perché poi mi fate passare a me vabbè, allora diciamo che è una manifestazione intelligente, interessante. Ma che fastidio ti dà, una volta eri una progressista anziché farti massaggiare i piedi. Meglio i falli leccati che i piedi massaggiati dopo non aver fatto nulla tutto il giorno, guarda cosa ti dico. Guarda un po', questa è una retorica che non c'entra, sì, non c'entra, infatti non c'entra niente, infatti non c'entra, senti l'altro falso scandalizzato. L'altro, senti il soccorso rosso. Fai parlare. Il soccorso rosso. Giudizio, se tu mi chiedi che perché non vai al Gay Pride, io ti dico: ci sono andata le prime volte, mi è anche piaciuto, però adesso non lo trovo più una cosa interessante. Ma le lesbiche sono interessate a te? Come, sì? Secondo me, sì, le lesbiche impazziscono per te. Ma io sono, guarda, io, i miei più grandi amici sono sempre stati gli omosessuali, sia donne che uomini. No, ma dico, la lesbica è una persona che di fronte a Marina di Petimiana impazzisce, cioè sei un oggetto di attrazioni lesbiche, secondo me, molto forte. Ma non l'ho mai constatato personalmente. Ma ci sarei andato con una donna in vita tua, no? Cioè, tutta la vita che hai fatto, sei andato a letto con mille persone, dai, su. Mi bastavano. Vabbè, ma con una donna sarai passata, avrai slinguazzato con una donna, Marina, su. Ma non so. Perché devo dire delle cose che non sono mai successe? Non esiste. No. Ti segnalo che mio cugino, di cui non dirò il nome, che ci sta ascoltando, che è un grande manager importante, dice: ha una bellissima voce, Marina. Beh, molto appena bella, scritto, ma io sono innamorato. Non posso dire il nome di questo manager importante, che vive a Monza, diciamo. Questa è la prima prima persona che lo dice, perché mi ricordo che c'era Bettino che mi diceva: Marina, tu c'hai molto, avuto molto dalla vita, ma insomma dovresti fare, dovresti sistemare la voce. Dice, perché come avere un gatto orrenda nelle mutande. Ma che te lo diceva tra una cosa e l'altra a letto, te lo diceva ogni tanto a letto. Ecco, vedi, siete sempre, so dove andavate a parare. No, ma guarda, ho parlato ieri con Vittorio Sgarbi al telefono e mi ha detto una cosa molto, molto chiara. Ha detto, io vorrei fare lo Ius Ultime Noctis con Marina Ripa di Meana. Ha detto, no, guarda, prima ci sono io. Ius Ultime Noctis, cioè vorrei essere l'ultimo ad andare con Marina Ripa di Meana. Io questo ho detto, io personalmente, beh, Giuseppe Crociani, vorrei essere l'ultimo ad andare a letto, fosse anche a 70 anni, a 73, 74, non so quanti anni è adesso. Beh, un bel apprezzamento da parte sua, è simpatico. No, ma io lo voglio fare, Ultime Noctis, ultime. Io vi lascio soli, ragazzi. Sì, brava, lasciaci sole. Scusate. E io ti risponderei che ormai ho raggiunto la pace dei sensi. Ma figurati, figurati. È così. Cioè, da quant'è che non fai? Non lo so, non si ricorda neanche. Da due anni. Ma guarda, ho raggiunto la pace dei sensi e uno pensa altro, si interessa di altro. In realtà, so che volete andare. No, è per sapere. Siete dei pecoricci. Ma no, pecoricci. Come dice. No, questa roba qui è il sale della vita. Il sale della vita. Non è detto per persone. Io non do giudizi. Per alcune persone è il sale della vita. Per me lo è stato. Non vuoi più parlare. Dice che non si parla più di te, non c'è gossip su di te perché non scopi. Questo l'ha detto Vittorio l'altro giorno. Sì, questa è un'altra cosa abbastanza primitiva. Diciamo, lo so, però l'ha detta Vittorio, sai. Vittorio l'ha detta, ma Vittorio, che l'uomo intelligente. Ubi Maior. Sì, io riconosco a Vittorio l'intelligenza, la cosa e tutto. Certe volte. Ma tu hai fatto sesso con lui qualche volta? Fuori, sì. Piscia fuori dal vaso. Hai fatto sesso con Vittorio? Lui dice di sì. Beh, per la verità io non me lo ricordo, per come non mi ricordo tanti altri. Non ti ricordi? Quanti uomini hai avuto? Lui dice 130, 140, 150. Ma no, forse anche qualcuno di più, ma non me lo ricordo. È tipo un numero generale, lo puoi fare un ma numero. Ma che ne so, non lo so, non mi ricordo. 200, 250. Una... Sì, anche di più, non lo so. Ho cominciato molto presto, da giovanissimo. Cioè, tu sei una di quelle che va per strada, come ogni tanto è successo a me. Incontri delle persone e ti fai una domanda: ma questa qua me la sono fatta o no? Sì, mi succede. Ah, ti succede? Cioè, sincera, incroci qualcuno per strada e che succede? Sì, confesso che ho di queste amnesie. Che vuoi fare? Cioè, uno dice: questo qua me lo sono fatto o non me lo sono fatto? E mi viene un po'. Succede perché è una cosa umana. È una cosa umana. Io ho avuto una vita che non mi sono fatta mancare nulla. Avevo, ahimè, degli ormoni che impazzavano. Grazie a Dio, degli ormoni che... E adesso non ho altro che ricordarmelo. Comunque mi segnalano, cara Marina, gente molto attenta, ascoltatori e soprattutto ascoltatrici molto attente, in realtà nel tuo primo libro... hai scritto che sei stata con una donna asiatica, anche escort, per cui non è vero che non sei. Non ti ricordi manco quello che hai scritto? Vabbè, ma siamo. No, un libro che ho scritto, sai quanti? 37 rotti anni. Ti sto dicendo che certi particolari della vita si dimenticano. Ma se l'ho scritto, può essere. Sì, ma perché ormai è un'altra dimensione, dai, appunto. Non ci si pensa più al sesso, ha ragione. Ma tu vai su Twitter? Sì, vabbè, però perché mi segnalano che nel tuo account ci sono addirittura dei link a video gay. No, non è possibile, non è il tuo. Dopo controllerò. Va bene. Ma chi lo controlla il suo account Twitter? Com'è andato? Come sta finendo il massaggio? Molto piacevole. Mamma mia, che bello. Domani è una giornata impegnativa, cosa succede domani? Domani? Sì, che devi fare? Sì, la giornata tipo di domani, giovedì, giorno di quindi normale, il 9 giugno, domani giovedì. Domani devo concludere il mio contratto per il nuovo libro che ho fatto. È importante con la Mondadori. Quello è importantissimo. Poi la giornata, la sveglia inizia alle 8. Poi devo incontrare un'altra persona che mi chiede i diritti, parlare con l'avvocato. Pazzesco. Che mi chiede i diritti per un libro. La schiena altro. Sarà sicuramente a pezzi. No, aspetta, poi andiamo avanti con la giornata. Poi per ora mi ricordo questo. Poi ci sarà una colazione, un pranzo con qualcuno. No, una colazione in giardino con mio marito e poche persone. Riposino notturno. Bellissimo. Riposino notturno. Non l'ho mai fatto. Ma che riposino? Vedi, il voto per la Raggi è un voto assolutamente trasversale che va da la nobiltà, tra virgolette, il salotto romano di una volta, ma anche di adesso, di Marina Ripa di Meana, all'operaio della Garbatella, alla periferia romana. Questa è la realtà. Cara Marina, ti saluto. Ciao. Ciao carissimo. Ciao. Ciao cara. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Meloni bella e libera, ma ferma il raccordo. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, ma Forza Italia Milano guarda avanti. Guarda oltre i monti. Abbiamo mantenuto con i nostri soldi la famiglia Bossi. Bravo. Vai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Mentre dicevamo Roma ladrona. Bravo. Sto imparando, Bravo, bravo. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Ascoltatori, Raggi Roma, sentite. Allora, la Raggi poi dopo si deve beccare i Rom, si deve beccare i marocchini, si deve beccare i negri, si deve beccare i Casa Monica, poi sono affari suoi. Servi di Roma fuori. Bella questa immagine, però la Raggi si beccherà i Rom, i marocchini, i negri e i Casa Monica. Ti do un annuncio. Aspetta, aspetta. Non ascolto questa parte di trasmissione. Perché? No, no, non lo ascolto. Manda pure, io mi tolgo le cuffie, guarda. No, aspetta, sì, aspetta, no, senti questo. Mandala e io mi tolgo le cuffie. Ma che c'è? Te devi ascoltare, no, per capire. Dai, mi non fare coglione. Schifo. Dai. Mi fanno schifo. Ascoltatore. Maledetto beduino che è venuto e che ha telefonato, che è venuto in Italia invece di starsene sotto un banano nella sua città di origine. Maledetto beduino. Ma tu ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto o no? È la tempesta. Come una madre, il figlio, ma la fa culo. Sento continuamente che la Lega è stata stroncata, ridimensionata, doppiata. Questi sono i termini che i giornali di merda e i telegiornali di merda usano per dire che la Lega ha perso. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori. Ancora, ancora ascoltatori. Senza dubbi né. E ci fanno togliere i crocifissi, ci fanno mangiare cucus e tutte le loro cagate del cazzo che portano nei loro paesi. Qua siamo belli rovinati, io veramente non la sopporto più. E come cazzo vuoi che vada se tu tutte le volte che ci sono le elezioni dici ah no, no, io non vado a votare, tanto non cambierà mai un cazzo. Padania bella e libera, guarda avanti. Ancora, ancora. Mi ritrovo i negretti che fanno un cazzo tutto il giorno e stanno molto meglio dei pensionati che prendono 500 euro al mese. Svegliamoci noi una volta per tutto. Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Finisce qui la rubrica semiseria. Il brutto, il peggio, il bello di Radio Padania. Guarda avanti. Luciano Arezzo, vai, Luciano da Arezzo. A Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Ti volevo parlare in merito alle case occupate. Sì. Io nel 92... Sì, ma come stai parlando? Con che mezzi tecnici stai parlando, no, Luciano? Sono senza voce. Sei senza voce, vabbè. Ho il cellulare attaccato all'orecchio. Vai, dimmi. Nel 92-93 ho occupato una casa a Milano. Poi mi sono trasferito ad Arezzo. Ma ho occupato una casa perché sono rimasto senza lavoro e chiaramente non potevo più permettermi una casa. Allora? E ho occupato una casa di proprietà della vecchia Baggina. Sì, ma tu puoi fare quello che vuoi nella vita. Uno dice io sono rimasto senza lavoro, occupo una casa, va bene, occupa una casa. No, cioè, no, non puoi pensare io ti dia ragione per questa roba qua. No. Se tutti facessero ragione, così, se no, tutti facessero così, ho bisogno, occupo una casa, sarebbe fino alla fine. Allora, la fine di tutto. Siccome non tutti hanno il privilegio di stare bene come te. Ma cosa cazzo c'entra? Ma non c'entra allora, niente. Quando ti trovi in uno stato di bisogno, hai la necessità di trovare delle soluzioni. Vabbè, amici miei, volete occupare le case? Occupate le case. No, poi non è che potete protestare se qualcuno arriva e dice scusi, però, signore, lei ha occupato una casa, potrebbe andare a fare in culo? No, questo, io sono povero. Ho capito, sei povero. La povertà c'è ed esisterà sempre. Quello che c'è da fare lo faremo e lo faranno le persone che hanno bisogno. Io l'ho tenuta 7 anni, ho pagato l'affitto, poi l'ho lasciata quando le mie condizioni economiche sono vabbè, ma quello è un altro discorso. Ok, però... Vabbè, ho capito. Maurizio da Salerno, vai, ciao Luciano. Maurizio, Salerno. Allora, io ho sentito dei pranzi, dei pasti alla mensa buttati via. Sì, io buttati da persone che sono entrate in Italia con Mare Nostrum. Abbiamo sentito questo racconto da parte di una signora che tutto era tranne che leghista o razzista. Sì, no, per carità, ma non è quello. Che ha raccontato di quei allora, 50 imbecilli che prendono il cibo e lo buttano. Allora, io mi ritengo una persona mediamente benestante, tra l'altro pure un po' testa di cazzo, quindi come dire, la goliardata, la pazzia la potrei fare. Per un certo periodo della mia vita, alcuni mesi, a seguito di una separazione, io sono finito ad andare a mangiare la mensa dei poveri perché non avevo di che mangiare. E allora... Però ripeto, nonostante la mia testa di cazzo, non mi è mai venuto, magari pure il giorno in cui c'era la cosa che mi piaceva di meno, l'idea di buttare quello che mi davano, perché di fronte al bisogno reale, ripeto, temporaneo ma reale, quel cibo era santo e benedetto. Questo sempre. Cioè, non si butta il cibo, ma questo va bene. Quindi probabilmente quelle persone non era testa di cazzo, è che probabilmente sono più garantite di altri che magari in casa loro. Ma io non lo so perché l'hanno fatto. Fatto sta che il racconto della signora mi sembra abbastanza chiaro. Gente che si presenta con i tablet, con i telefonini. Basta con questa storia. Sembra che siano ricchi, dai. Ma qua, ascoltami. Sono stati stupidi. I tablet. Come i ce tablet, ne sono, sono dappertutto, sono persone una, stupide. I tablet che non sono cibo. Una cosa che tutte le persone hanno. Ma a parte che il tablet ne trovi ormai a poche centinaia di euro. Non ti è quello bene il tema. Che tu, di pagare non i tablet, di pagare ma i tablet agli extracomunitari che arrivano. Non fare demagogia stupida. Non pago il tablet a nessuno. Sì, lo paghi. È il loro mezzo di comunicazione con i paesi dai quali vengono. Spesso non riescono neanche appena arrivati a fare una telefonata a casa in Nigeria e in altre parti del mondo dove è difficile comunicare. Hanno il telefonino. Hanno il telefonino. Anche il tablet. Tablet, il migrante non può avere il tablet. Il migrante che si è pagato un biglietto 20.000 euro e ha usato tutti frega, i suoi soldi sono affari per suoi. Attraversare il Mediterraneo e venire qui da noi e magari gli è avanzato qualcosa, non può comprarsi uno strumento con il quale via mail comunica. Ma magari no, se con il suo comprare paese con i suoi soldi, non però può, con i suoi lui soldi. È un migrante schifoso, no, e soltanto che schifoso. La nonnina padana può usare il tablet per vedere la ricetta ma con i suoi su come soldi. Si fa la polenta concia. Con i suoi soldi lo può comprare, certo, ma lavorando infatti, con i suoi soldi. Ma ragazzi miei, ma di Maurizio, è la continua, Maurizio, continua. Maurizio, continua. Io avevo bisogno Maurizio. Di comunicare con mia figlia, ma i soldi per il telefonino, per parlare con mia figlia, Italia per Italia, Salerno per Salerno, non è che me ne ha passati qualcuno, eh. L'esigenza di comunicare con le famiglie ce l'abbiamo tutti, però in quel periodo a me nessuno me l'ha garantito sto diritto. Io non voglio negare agli altri il diritto di comunicare, però ripeto, in casa nostra... In casa mia, io questa, come dire, questa protezione, questo aiuto non l'ho avuto. Io pago le tasse, io questo mese rimarrò con poche centinaia di euro perché ho una bolletta Equitalia che risale a quel periodo là che domani vado a saldare. Ma mi per cui lei è incazzato quando sente le storie di immigrati col tablet, di immigrati col telefonino, di immigrati che prendono il cibo perché il riso è scotto una volta, perché non si sa per quale motivo. Mi pare che siamo scollati con la realtà. Se c'è qualcuno immigrato che c'ha il tablet e si permette di buttare il cibo, ti posso garantire che uno che sta mediamente bene, che forse adesso non prendo manco gli 80 euro di lenti, c'è stato un periodo in cui mi morivo di fame e non mi sarei mai permesso di buttare ma quello certo, manco va bene, ma infatti... di quello che mi davano. Ho capito, ripeto, ciao Maurizio, ho capito benissimo. Gabriele Monza, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Gabriele soltanto... da Monza. Da Monza, sì, da Monza, esatto. No, perché io mio cugino che abita proprio a Monza, comunque. Ma che c'entra che tu cugino abita a Monza? Dicevo, ma non c'è, lo conosco, non lo so. Ma la pazia, il cugino però che abita a Monza. Però abita a Monza, mio cugino vabbè, quello capito, che mi manda i messaggi frega. Prima, che è un importante simpatico manager, sta tornando a casa, ascolta sempre. Guarda, e abita a Monza, mi è venuto in mente, basta, non sarà mica grave. Il cazzo che me ne frega in cielo, sinceramente, proprio detto terra. Come? No, stavo guardando il cazzo che me ne frega del cugino di Parenzo in cielo nel frattempo. Vabbè, adesso pure tu, non esagerare, adesso il cazzo che me ne frega del cugino di Parenzo, cerca di essere... Vabbè, ma giustamente, no, ma giusto per così, no, giusto per... Vabbè, Gabriele, non per allora... Non ghiaccio. Ma niente, Giuseppe, volevo soltanto dirti che basta sti cazzi di Parenzo che ragiona sempre con le sue solite quattro banalità, trite, ritrite, insomma... Sì, giusto. e via dicendo, no? Io mi candido ufficialmente, sì, candidati, lo dico qua, sì. Giuseppe, sì? Da farti la spalla per la prossima stagione di Ligia. Che bella notizia, che meraviglia. Guarda, che meraviglia. Allora, prego, vai 5 minuti tu da solo, io sono qui, quando volete mi chiamate. Conduci per 5 minuti, guarda, anche 10, quello che vorrà cominciare. Non c'è nessun problema, vai, prego. Assolutamente. Allora, fermola. Allora, Enrico da Reggio Calabria, vai Enrico. Vediamo che succede. Cruciani, dimmi. Buonasera. Dimmi. Ti volevo dire due cose. Dimmi. Se tu provi a chiamare adesso in un paese della Bergamasca, nel paese dove è il boss, e gli chiede dello scandalo di Belfito, dei fondi della Tanzania. Sì, però parla meglio, se no non ti capisco, Enrico. Parla meglio, parla più forte, avvicinati di più. Alza la voce, fai qualcosa. Senti questo. Sì, ma è leggermente meglio. Allora, vai. Telefonate a Platì. Le telefonate a Platì, che c'hanno che non vanno? Le telefonate a Platì. No, non sento, Enrico. Da Reggio Calabria, mettiti in un posto dove prende questa minchia di telefono che hai in mano. Vai. Lo sento adesso. Sì, meglio. Adesso sento. Metti bene il telefono. Io ce l'ho benissimo il telefono. Vai, dimmi. Allora, praticamente tu stai telefonando in un paese che alle 7 di sera ti rispondono solamente vecchi e non sanno nemmeno che gli ti dicono. Sì. Tu non puoi prendere in giro così. Tu telefoni a mezzogiorno, che uno ti sa dire se c'è l'andrangheta, se non c'è l'andrangheta. Scusami, Enrico, ma questa qua non è un istituto dei sondaggi, non è una ricerca. Lo so, però tu non puoi è una ricerca socorro. Rispondono tutte vecchie, che rispondono vecchie, Cruciani. E allora? È scontato con la legge. Ma non è una ricerca sociologica questa, è una trasmissione radiofonica. Scusa, ma questo qui che non gli funziona il cellulare, non può farselo dare da un immigrato, che quello almeno funziona? Infatti, cerca un immigrato. Ecco, fatti dare un tablet da un immigrato. Anche è successo pure un casino oggi in Calabria. Là, dov'è che è successo un casino? Gioia Tauro, una storia terribile quella del carabiniere, che ha sparato e ucciso un immigrato perché pare che questo immigrato l'abbia assaltato con un coltello. Sì, una storia terribile, insomma. Vabbè, allora Enrico? Vabbè. Allora ti dico una cosa, tu chiedi, lo so che non fa un'indagine, ma tu che cosa vuoi che ti dice perché se c'è l'andrangheta? Può darsi che nemmeno sa che cos'è l'andrangheta, perché può darsi che a Santo Luca si dice di un'altra cosa, a Platì si dice in un altro modo. Ah, si dice in un altro modo andrangheta. È chiaro, è regolare, e può darsi che quella lì che non è scolarizzata non ti sa bene nemmeno bene, hai dato la tua spiegazione tecnica. Il giornalista è tempo studioso e tutti quanti. Come? Difficilmente un calabrese dice questa parola andrangheta, ma non perché non la dice perché si mette perché non la dice? Come le chiama? Paese che va, cambia. Tu come la chiami l'andrangheta? Come la chiami? Per me è malavita, per me è gentaglia. Comunque, come si sposta di posto in posto, hanno nomi diversi. Vabbè, E tu non è giusto che tu speculi. Non è giusto che speculo. Scusa, ti spiego, per fare spettacolo, per fare show, tu chiama una donna del Bergamasco e gli domanda se sa qualcosa delle lauree false di quelle della Lega. Ma che c'entra? E quella ti dice, e vedi che ti risponde, ma che dici? Ma che so, ma che è la stessa vecchia che dici che non ti capisci. Questo ti volevo dire, Cruciani. Ciao Enrico, ti abbraccio, ciao. Ciao Giuseppe, sono in auto con il mio fidanzato che mi schiaccia i brufoli sulla schiena e ascoltiamo la zanzara. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Occhio che andare a prostitute ad Amsterdam è una grandissima inculata, non nel senso che ti inculano, ma nel senso che la tua esperienza sarà sicuramente molto deludente, perché tu entri e in pratica non le puoi minimamente toccare, sono loro che scopano te e in pratica tu sei lì fermo come un oggetto più o meno inerme. Il tutto è molto meccanico. Penso che le esperienze nei bordelli svizzeri e austriaci sia più coinvolgente, diciamo. Saluti dall'Olanda. Siamo al top! Sono appena entrato in bagno dell'ufficio. Ci sono schizzi di pipì sulla tavoletta, per terra, sull'asse. Io invece vado al lavandino, zip, psh, perfetto. Parenzo, ti scandalizzi per lo squirting di sublimi umori femminili? E poi ieri ci hai ammorbato tutta la puntata con lo squirting di liquami del tuo cesso. Vergogna, Parenzo, vergogna! Giuseppe, sei peggio di Barbara D'Urso, guarda, un canis mesomelas, detto sciacallo della gualdrappa, ti avventi su qualsiasi carcassa. Minchia, quanto mi sento carico oggi! Stamattina quando mi sono svegliato Ho fatto una chiacchierata con Duce, qua statua. Allora gli ho detto, ma tu che ne pensi oggi alla giornata? Come va? Va bene o va male? Praticamente con quello sguardo mi ha fatto capire che oggi era una giornata di merda. Piccola pennellata, caro Parenzo, piccola pennellata, cioè, di sentito, karma, eh. Ma piccola c'è quella bella voce femminile che si rivolgeva a me? Quella è una bella voce, c'era quella. Ah, finalmente ogni tanto si smuove qualcosa, no, si smuove in quella, in quella zona morta, in quella zona morta. Morta sarà quella, la zona, la morta sarà quella di Mercurio, mia è vivissima e attiva, ma sono anch'io sensibile a quella voce interessante che pur avendomi offeso, no, recatomi, perché, no, ha detto, sì, ti scandalizzi per lo squirting, eccetera. Dov'è quello che mi vuole sostituire? Dov'è? Ancora in linea lì con sì, il aspetta, però aspetta, ti devo raccontare un po', vediamo, no, io farei una telefonatina, caro David, una telefonatina molto interessante. Parla con lui, con questo personaggio. No, con te. Allora, Giovanna, qua c'è scritto Giovanna, leggo Giovanna? Sul messaggero. Passa la domenica bilada, guarda gli alberi, si rilassa. La mattina pulisce le case a talenti, il pomeriggio fa la prostituta. Ma la prostituta? Su e giù sulla Salaria, in bici, pedalando lentamente, fondo schiena all'insù. L'ultima frontiera, stratagemma per evitare sanzioni e pericoli del mestiere più antico del mondo. Ma è una prostituta? Una prostituta, sì, più ma minorosa. Ma era meglio chiamare Ricolfi, ad esempio. Coda di cavallo, pantacollan trasparenti, perizoma. Grande racconto di vita del messaggero. Io mi sono procurato, grazie ad alcuni amici, il numero di telefono di questo signore. Ma era meglio chiamare Bombassei, ad esempio. No. Che fai? Una telefonatina sulla Salaria? La facciamo o no? Questa telefonatina sulla Salaria, che dici? Ma dai, figurati se risponde poi. No, ma risponderanno, le mignotte rispondono, anzi. Ma c'è da lavorare. Sempre il telefonino acceso, le puttane, dai, su. Facciamo questo tentativo con la signora Giovanna. Prova. Si chiama così poi, Giovanna. Sì, pronto? Giovanna? Sono Susanna. Susanna, dov'è Giovanna? Giovanna non c'è, c'è Susanna. Giovanna è quella del giornale. Ah, allora ti chiami Susanna? Certo. Ciao, sono Cruciani dalla radio, come stai? Oh, Cruciani, no! Sei diventato il mio mito per quello che hai detto, il mio mito! Beh, d'altra parte le prostitute sono tra le nostre ascoltatrici più come assidue. Come sta, signora? Come ma sta? Sei un grande, cazzo, io ti ammiro troppo. Senti, Susanna, ma dimmi una cosa, ma è tutto vero quello che c'è scritto, quello che ho letto? È tutto verissimo, perché io sono una persona vera e non ho niente da nascondere. Purtroppo brava. Nella vita ho sofferto tanto, ho conosciuto dei bastardi, ho fatto due figli all'estero e mi ha lasciato all'estero da sola, quindi sono tornata qui a Roma dai miei. E da a Roma dai miei, sì. Ho lavorato come una pazza a bar, ristoranti, poi non ce l'ho fatta più, poi ho detto sai che c'è, ma vaffanculo, mo mi rimetto in pista. E con la biciclettina, scherzando e ridendo, prima andavo al centro, e un giorno, perché io parlo inglese e francese, quindi andavo da questi businessmen che andavano lì in via Veneto, così andavo in albergo, no? Sì. Poi un giorno la testa mi ha detto, ma pensa con chi sto parlando, amica mia. La testa mi ha detto, ma fammi provare a via Salaria, no? Perché io sono una pazza che si butta nelle cose. Sì. All'inizio avevo una paura da morire. Sì. E poi ho visto che poi il coraggio viene sempre premiato nella vita e mi si è aperto un mondo qua. Adesso ma scusa, sono diventata famosa. Ma perché sei passata, Susanna, dai businessman negli alberghi a... Dai sfigati qua. No, sfigati, no, non so adesso che clienti c'hai. A quelli sua clientela qui. Perché non restavi negli alberghi con i businessman? Perché mi hanno detto il cazzo i papponi in via Veneto. Mi hanno detto tu qua se sei richiesta, vaffanculo. Io ho paura, la mafia, le cose, me ne sono andata. Cioè, perché... meglio battere per strada sulla Salaria con la bicicletta? Eh sì, perché lì non è, alla fine ho conosciuto tutti, puttane, papponi, polizia, carabinieri, cioè qua la cosa è fattibile, quindi io continuo. Ma mi scusi, sono trovata signora. Due posticini all'aperto e ci lavoro e signora. Va bene così. Senti, Susanna, diglielo un po' a Parenzo che non signora, sei sfruttata, ecco, sfruttata, no, vabbè, diglielo. Lei non sarà, no, lei... io sono sola, di mia libera iniziativa, sono libera e felice di farmi scopare da chi mi piace. Beh, questo adesso... Sono felice così. Madonna, pensate, io ogni sera che rientro a casa sì? mi faccio la doccia e ti ascolto. Sei incredibile. Susanna, senti, meno male che si fa la doccia. Senti, senti Susanna, ma quanti anni hai? Ma io sono grande, amore. 50. Però, se 50. Mi vedi, sono un pezzo di figa. Vieni sulla salaria a vedermi. Amica mia, io sto a Milano. Però, sto... Non si può dire alla radio sta roba. Però. Vivo a Milano, io, amica mia. Ma senti, che punto hai della salaria esattamente? Dove stai, guarda, tu? Io sto altezza Sky. Infatti, tutti quelli di Sky ormai sono diventata qui. Ma sono clienti fissi, diciamo. No, ma che sì, dai, io ma penso figurati. Che mi sei fatta tutta Sky senza saperlo. Ma che dice? Aspetta, che mi si avvicina un cliente. Dai, vedi un po'. Cliente in diretta. Bravi, fammi il cliente in diretta, bravissimo. Stupenda, numero uno. Ciao, che volevi venire? Sì, all'aperto in albergo. In albergo. Allora guarda, ti devi rigirare o fai retromarcia qui piano piano, perché sta qua, ma guarda, certo. Tornando indietro qua, questo qui con le bandiere. Ma non c'è una moglie allora, questo qua? Allora entra qua all'aeroporto dell'Urbe e ti rigiri. Ci vediamo là, aspetta. Ma là. Non c'è una moglie questo qua? Scusa, ma che... Ma guarda, allora... Chiedigli se c'è una moglie quello. Qua. Sono tutta gente che... Tutti i businessmen che vanno di corsa così, però gli piace tanto un pompino così fatto da Dio, perché dice? Li faccio da Dio. E sessualmente mi piace, sono molto calda, quindi poi io non vado con tutti, io vado con gli uomini che mi piacciono. Vabbè, quindi... questo adesso manca, hai visto, ci sei andata, scusa, ma che stai a dire? No, questo qui adesso perché è fattibile la cosa. Ma perché? Perché se cioè, la persona tu... è pulita e per bene, io ci vado. Ma che ne sono... sai, adesso questo si è accostato con la macchina, come fa a sapere se è pulito e per bene? Ma lo vedo, no, lo vedo. Vedo lui come è vestito, vedo l'aspetto, vedo come parla, i denti, le mani, io vedo, io guardo tutto. Vabbè, ma adesso ci hai messo 3 secondi, vabbè, lasciamo perdere, ma praticamente vai in albergo lì accanto? Vai in albergo, certo. Lì? Prestazione quanto costa? Ma no, amore, perché vuoi sapere i prezzi? Ma dai, ma dimmi i prezzi, ma che te frega, ormai. Tanto si sanno i prezzi, no? 100? 100 a botta, no. Quanto è? 100? Ma no, ma va, qui è basso il budget, è da 30, 50, mamma mia, 70, oh. È basso qua, perché qua è di passaggio. Cioè, servizio gente... completo quant'è? 70? No, completo in albergo è 100-200 euro. Al volo, sì. Così, al volo? Al volo così, 30-50. Questa storia della moglie e marito, cioè perché sei passata alla strada? E questa è la cosa curiosa, cioè... Perché io adoro pedalare, io vado in bicicletta, no? Sì, e come sei vestita di solito? Di solito, eh? Di solito come ti vesti? Appunto, per quello dovresti vedermi. Manda qualcuno a farmi un filmatino e te lo manda a Milano, perché io vado in giro col pantaloncino dentro al culo. Ma e no, praticamente si sono abituati tutti, pure i carabinieri, la polizia, non mi dice più niente nessuno. Ma che c'hai, clienti pure tra carabinieri e poliziotti, no? Ma penso proprio di sì, che saranno venuti pure loro. Ti dico, guarda, io non me l'aspettavo questo successo a questa età. 50 anni, 50 proprio. Anni. Quanti figli sì, hai? Sì, ma sembra che ce n'ho 35-40, perché io mi alleno tantissimo, faccio sport. Brava, ma quanti figli hai? Io ho 2 figli, 19 e 16. E riesci a mantenerli facendo la puttana? Certo. Cosa pensano i suoi figli del suo lavoro? Io questo voglio capire. I miei figli soffrono tanto che faccio questa vita. Però ti credo. Quanti anni hanno? Non mi faccio mancare niente. Che devo fare? Mantengo 3 persone. Quanti anni hanno? Quanti anni hanno i figli? 19 e 16. Magari preferirebbero che lei facesse un altro lavoro. Io lo capisco. Certo. Me l'ha chiesto volte mio figlio di smettere. Allora non è normale, vedi? Ma se una per fare i soldi, lei per fare i soldi fa la puttana. Male. Vedi che però non è una scelta felice, diciamo. I suoi figli soffrono di questa roba. Fare da chi mi pare, lo farei pure se non facessi la puttana. Cioè ti piace proprio? Ti piace proprio? A me tornano perché trovano una donna che gode, cioè. Vabbè, io non adesso, sono però una questo... puttana. Sei vera, no. Sei vera, ti amo, io sei sono vera, io bacio sulle labbra, quando mai una puttana bacia? Ma certo, pure questo è vero. Senti una cosa, ma io non ho capito questa cosa del che tu selezioni le persone. Cioè leggo qua che qualche volta mandi via la gente. Mando via un sacco di cioè, gente. Per esempio, io chi mandi via? Tutti andrei via col triplo dei soldi, ma io mando via. A me la gente che mi fa schifo non mi va di tipo? Tipo chi? Panzoni, chi? I panzoni, i grassoni, la gente sporca, i camionisti sporchi, luridi. No, io non vado con questa gente. Io guarda che il tipo di clientela che ho io sono tutte persone per bene, normali, che lavorano, di tutti i ceti sociali. Beh, dall'operaio a... Oh, ciao! Chi un è? Altro cliente in diretta. Chi è? Aspetta. Chi è? Questo è un bellissimo uomo. Ah, già lo conosci allora? Sì. Tornano tutti. Dai, parlaci un attimo, parlaci, dai. Ciao, tesorino, vieni? Vieni, tesorino. Vieni, vada a lavorare questo qui. Trattativa. Amore. Amore. Brava però, hai visto che capacità di seduzione. Ma che brava, cosa, ma che cercando di seduzione, ma sta cercando di convincerlo. Secondo solo? Un degrado. Ma che degrado? È la vita normale di tutti i giorni. Ma pensa ai poveri figli che dicono i genitori. Ma ho capito, ma viene a giocare bene a casa mia. Dice, ah, che bello, che lavoro fa la mamma? Ma prostituta. Vabbè, d'accordo. Vabbè. Sì, ci sto. Ho due clienti contemporanei. Quanti ne fai? Tu sei il mio mito, però io ti devo lasciare adesso. Perché devi andare a lavorare. Quanti ne fai al giorno? Quanti ne fai al giorno? Ma dipende. Quando va male, 5, 10... 5, quando va 10. Bene, 20, 30, dipende. Ma tutto sempre protetto, sì, oh. Sì, certo. Ma che sei matta? Ciao, ti abbraccio, ciao, ciao, baci. Susanna, numero uno assoluta, facciamola diventare la nostra prostituta, come Gheddafi era il nostro figlio di puttana. No, capito, che Susanna è la nostra prostituta, la nostra puttana. Mi piacerebbe sapere il nome di quel cliente che è andato in albergo con la signora perché, poi segnalarlo alla moglie barra fidanzata. Ma perché? Così torna a casa, ecco, trova la signora con un bel bastone nodoso che glielo dà in testa. Ma smettila di fare il bigotto, così. Compratore di corpi umani. Ragazzi, ancora non ho ricevuto. Oggi ho avuto poco tempo per consultare, per compulsare i vostri messaggi. Faremo di meglio domani. Però ancora non ho ricevuto nulla. Chiamate anche di giorno, soprattutto di giorno, la segreteria del sindaco di Acerra, Lettieri, che pare si sia molto indispettito per questa cosa. Ti credo. Puttanieri di tutta Italia, uomini e donne libere. Chiamate per dire basta a questa campagna bigotta, comeinista, sessuofobica del signor Lettieri che vuole multare i signori che di loro sponte vanno a prostitute nel suo comune. 081 52 19 210. Chiamate e incazzate. Dobbiamo chiudere, che dite? Sì, no? Andiamo via. Aspetta, dai. Andiamo via, dai. Chi c'era? Luca da Como, chi c'era? Chi se ne frega di Luca, dai. Daniele da Roma, dai. Capirai, Daniele da Roma. Vai, Daniele, vai. Pronto, chiudi in bellezza, ciao, vai, guarda, veloce, vai, vai. Facilmente dimmi. Con Parenzo. Parenzo parla sempre, ma lui gli piace fare, scusate il classicismo, il procio col culo degli altri. Oh, cioè? Daniele da Roma ci vuole. Questa è una cosa che piace. Io vedo un sacco di gente di colore nera, per carità. Daniele allora, da Roma. Sono tutti loro. Davanti supermercati vestiti molto bene, col Daniele telefonino che costa al triplo del che mio, vuol dire? Che col cappellino in mano, aspetta un attimo, col Daniele cappellino D'Aroma in mano che ti chiedono i soldi. Anni fa c'erano delle povere persone Daniele che ti chiedevano di aiutarti col carrello per prendere l'euro e io, come tanti altri, gli davamo non un euro, due, non gli facevano manco faticare perché dunque ci mettevano una buona volontà. Dunque questi che cazzo vogliono, ma almeno fa finta di darmi una mano, ma che vuoi, soldi a uffa. Se mia figlia deve andare all'estero e fa la ragazza alla pari per aiutarsi a mantenere, noi questi li teniamo, li facciamo stare e manco vogliono pagare, manco alzano una paia, fai finta. Io se sono ospite di qualcuno e vedo che sta Daniele dando una da Roma, vita per terra, vabbè, se non altro io te posso dare una mano per fermi lì, dobbiamo chiudere. Parenzo, lapidario male, ma vaffanculo Cruciani, ma va tocca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.